Questo è un progetto che è stato pensato alla fine del 23 e portato poi a compimento, per portarlo poi a compimento in occasione dell'80esimo della Liberazione. L'intento era proprio quello di valorizzare i documenti, la ricerca e il grande lavoro che gli istituti fanno da sempre e che in questa occasione poteva essere valorizzato con un progetto innovativo, con un progetto digitale e quindi su una piattaforma molto accessibile, molto, molto facile da consultare. Credo che il risultato sia molto gratificante per noi e molto utile per tutti i cittadini e le cittadine della regione. Speriamo e contiamo di aver dato un contributo significativo per la ricorrenza dell'ottantesimo della Liberazione, che è stata diversificata a seconda delle zone della regione, non è avvenuta tutta contemporaneamente, anche se ovviamente il 25 aprile è la data canonica che riassume un po' tutta la storia. Come avete fatto a fare questa raccolta? Quali sono i punti di forza di questo vostro lavoro? Siamo partiti ormai un annetto fa e abbiamo cominciato a pensare come si poteva procedere e abbiamo proceduto in questo modo. La storia non si disgiunge mai dalla geografia, per cui in home page c'è una mappa interattiva, navigabile, e in fondo alla mappa c'è una linea del tempo, quindi è possibile accedere attraverso un home page a tutti i territori diversificati a seconda delle colorazioni, con tutti, diciamo così, i processi che sono necessari per la digitalizzazione e anche per la resa online di questi contenuti. Quindi attraverso i territori o attraverso le cronologie è possibile capire come questo territorio, l'intero territorio regionale, a partire da Rimini, settembre 1944, fino all'aprile del 45, per la liberazione complessiva dell'intero territorio regionale.